Quando non parlava della sua ammirazione per la bellezza di Morel, come se fosse stata del tutto priva di rapporto con un gusto denominato vizio, Charlot trattava di quel vizio, ma come se non fosse stato in nessun modo il suo. A volte, addirittura, non esitava a chiamarlo col suo nome. Una volta che, dopo aver ammirato la bella rilegatura del suo Balzac, gli chiesi cosa preferisse nella Comédie Humaine, mi rispose, indirizzando il pensiero verso un'idea fissa. Tutto quanto, le piccole miniature come le Cure de Tour e la Femme Abandonnée, o i grandi affreschi come la serie delle Illusions Perdues. Come? Non conoscete le Illusions Perdues? È così bello quando Carlos Herrera chiede come si chiami il castello davanti al quale sta passando in calesse. È Rastignac, la dimora del giovane da lui amato un tempo. E l'abate allora sprofonda in una fantasticheria che Swann chiamava molto spiritosamente la tristesse d'Olympiot della pederastia. E la morte di Lucien. Non ricordo più quale uomo giusto, a chi gli chiedeva quale avvenimento nella sua vita gli avesse dato più dolore, abbia risposto «La morte di Lucien de Rubempré, in Splendeur et Misère». «So che Balzac va molto quest'anno, come l'anno scorso il pessimismo», intervenne Brichot. «Ma a rischio di contristare gli animi affetti da deferenza balzacchiana e senza pretendere di me ne guardi, al ruolo di gendarme delle lettere incaricato di levare processo verbale per infrazione delle norme grammaticali, confesso che il copioso improvvisatore di cui mi sembrate sopravvalutare curiosamente le stupefacenti elucubrazioni mi è sempre parso uno scriba non abbastanza minuzioso. Ho letto quelle Illusions Perdues di cui ci parlate, barone, torturandomi per giungere a un fervore da iniziato, e confesso in tutta semplicità d'anima che quei romanzi d'appendice scritti con la penna intinta nel pathos, infarciti di discorsi senza capo né coda, Esther heureuse, humaine le mauvais chemin, à combien l'amour revient au veillard, mi hanno sempre fatto pensare ai misteri di Rocambole, promossi in virtù di un inesplicabile favore alla precaria posizione di capolavori. «Dite questo perché non conoscete la vita», obiettò il barone doppiamente infastidito, perché sentiva che Brichot non avrebbe capito né le sue ragioni d'artista né le altre. «Mi rendo ben conto», ribatté Brichot, «che per esprimermi come Mastro François Rabelais volete dire che io sono grandemente sorbonastro, sorbonicolo e sorboniforme. Tuttavia, proprio come ai compagni, mi piace che un libro dia l'impressione della sincerità e della vita. Non sono certo di quei chierici. Il quarto d'ora di Rabelais?» lo interruppe il dottor Cottard in tono non più di dubbio, ma di spiritosa sicurezza. «Non sono certo di quei chierici che fanno voto di letteratura abbracciando la regola della Bayeux-Bois e giurando obbedienza al visconte di Chateaubriand, gran maestro della fumisteria, secondo la regola stretta degli umanisti». «Il visconte di Chateaubriand? Chateaubriand con patate?» intervenne Cottard. «È lui il gran capo della confraternita», riprese Brichot, senza raccogliere la facezia del dottore, il quale in compenso, allarmato dalla frase dell'universitario, guardò Charlot con inquietudine. La frase di Brichot era parsa priva di tatto a Cottard, il cui gioco di parole aveva fatto affiorare un arguto sorriso sulle labbra di Madame Sherbatov. «Con il professore l'ironia tagliente del perfetto scettico non rinuncia mai alle sue prerogative», osservò la principessa per cortesia e per far notare che la battuta del medico non le era sfuggita. «Il saggio non può non essere scettico», rispose il dottore. «Che cosa so io? Gnofi seuton», diceva Socrate. «È giustissimo, l'eccesso è sempre un difetto, ma resto di stucco quando penso che è bastato questo a fare durare il nome di Socrate fino ai giorni nostri. Che cosa c'è in questa filosofia? Tutto sommato ben poco. Se si pensa che Charcot e altri hanno fatto lavori mille volte più notevoli e che si basano almeno su qualcosa di concreto, per esempio sulla soppressione del riflesso pupillare come sindrome della paralisi generale, e sono pressoché dimenticati. Socrate, in fin dei conti, non è niente di straordinario. Era gente che non aveva niente da fare, che passava l'intera giornata a passeggiare, a spaccare i capelli in quattro. È come Gesù Cristo, amatevi gli uni gli altri. Ah, davvero grazioso. Mio caro, intervenne con tono supplichevole Madame Cottard. Naturalmente mia moglie protesta, sono tutte nevrotiche. Ma no, amico mio, non sono nevrotica, mormorò Madame Cottard. Come non è nevrotica? Quando suo figlio è malato presenta fenomeni di insonnia. Ma insomma, riconosco che Socrate insieme al resto è necessario per una cultura superiore, per avere capacità espositive. Cito sempre il Gnofi se auton ai miei studenti del primo corso. Il vecchio Bouchard, che l'ha saputo, se n'era allegrato con me. Non sono fra i sostenitori della forma per la forma, non più di quanto in poesia tesaurizzerei la rima milionaria, riprese Brichot, ma resta il fatto che la Comédie humaine, ben poco umana per la verità, esagera nell'essere il contrario delle opere in cui l'arte eccede la sostanza, come dice quell'eccellente carogna di Ovidio, e mi si consenta di preferire un sentiero a mezza costa che conduce alla canonica di Modon o all'eremitaggio di Ferney, ugualmente distanti dalla vallée au loup dove René assolveva superbamente i doveri d'un pontificato senza mansuetudine e da Le Jardin dove Honoré de Balzac, assillato dagli ufficiali giudiziari, cacografava senza posa per la sua polacca da zelante apostolo dell'arabo ostrogoto. Chateaubriand è molto più vivo di come lo descrivete e Balzac è comunque un grande scrittore, replicò Charlot, ancora troppo impregnato del gusto di Swann per non essere irritato da Brichot, e ha capito benissimo le passioni che tutti ignorano o studiano solo per condannarle. Senza riparlare delle immortali Illusion perdue, Sarrasine, La fitte aux yeux d'or, Un passion dans le désert, e persino l'alquanto enigmatica Fausse maîtresse, convalidano la mia tesi. Quando gli parlavo di questo aspetto innaturale di Balzac, Swann mi diceva: siete della stessa opinione di Taine. Ora io non avevo l'onore di conoscere il signor Taine, aggiunse Charlot, con l'irritante abitudine di quell'inutile signore tipica dei personaggi del gran mondo, come se affibbiando tale appellativo a un grande scrittore credessero di conferirgli un onore o forse di mantenere le distanze e sottolineare che non lo conoscono. Non conoscevo il signor Taine, ma mi consideravo molto onorato di condividere una sua opinione. Del resto, a dispetto di queste ridicole consuetudini mondane, il signor di Charlot era molto intelligente ed è probabile che se qualche remoto matrimonio avesse annodato una parentela fra la sua famiglia e quella di Balzac, egli ne avrebbe provato, non meno d'altronde dello stesso Balzac, una soddisfazione di cui comunque non avrebbe potuto fare a meno di vantarsi come di un mirabile segno di condiscendenza. A volte, alla stazione successiva a Saint-Martin-du-Chêne, alcuni giovani salivano sul treno. Charlot non poteva trattenersi dal guardarli, ma siccome la abbreviava e dissimulava, la sua attenzione dava l'impressione di nascondere un segreto ancora più particolare di quello vero. Si sarebbe detto che li conoscesse e lo lasciasse trapelare suo malgrado, una volta accettato il sacrificio, prima di voltarsi di nuovo verso di noi, come fanno i bambini ai quali, in seguito a un litigio fra genitori, si sia proibito di salutare certi compagni, ma che, quando li incontrano, non possono fare a meno ad alzare la testa prima di ricadere sotto le grinfie del precettore. Alla parola derivata dal greco con cui Charlot, parlando di Balzac, aveva completato l'allusione alla Tristesse d'Olympio in Splendeur et Misère, Ski, Brichot e Cottard s'erano guardati con un sorriso meno ironico, forse, che improntato al genere di soddisfazione di chi a un pranzo riuscisse a far parlare Dreyfus del suo proprio affare o l'imperatrice del suo regno. Contavano naturalmente di farlo andare un po' oltre sull'argomento, ma si era ormai a Doncières, dove Morel si univa a noi. In sua presenza, Charlieu sorvegliava accuratamente la conversazione e quando Ski volle riportarlo all'amore di Carlos Herrera per Lucien de Rumbepré, il barone assunse l'espressione contrariata, misteriosa e infine, vedendo che non gli si dava retta, severa e intransigente, di un padre che sente dire delle indecenze davanti a sua figlia. Poiché Ski si ostinava a battere quel tasto, Charlieu, con gli occhi fuori della testa e alzando la voce, disse in tono significativo, indicando Albertine, la quale peraltro non poteva sentirci, occupata com'era a conversare con Madame Cottard e la principessa Scherbatov, e con la sfumatura di doppio senso di chi vuole impartire una lezione a dei maleducati, credo che sia ormai tempo di parlare di qualcosa che possa interessare a questa fanciulla. Ma capii benissimo che per lui la fanciulla non era Albertine, bensì Morel. Lui stesso, del resto, confermò più tardi l'esattezza della mia interpretazione con le espressioni di cui si servì quando chiese che non si tenessero più simili discorsi davanti a Morel. «Sapete», mi disse riferendosi al violinista, «non è assolutamente quel che potreste credere. È un bravissimo ragazzo che ha sempre saputo mantenersi molto serio, molto onesto». E si percepiva da queste parole che Charlieu considerava l'inversione sessuale come un pericolo non meno grave per i giovani della prostituzione per le donne e che, usando per Morel l'aggettivo «serio», gli attribuiva il significato che esso assume applicato a una giovane operaia.